English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. La scorsa settimana abbiamo inevitabilmente parlato di Steve Jobs perché erano passati pochi giorni dalla sua scomparsa. In realtà ci eravamo chieste, no Giulia, se dedicare a lui una puntata. Ci sembrava troppo presto, però volevamo farlo prima o poi. Abbiamo deciso di farlo questo sabato e abbiamo deciso, o meglio Giulia mi ha proposto, io ho accettato con entusiasmo quest'idea di andare a ripescare dei vecchi commercial, dei vecchi spot pubblicitari, alcuni mandati in onda, alcuni. Adesso chiederemo, Giulia ne sa tutto, quindi ci faremo spiegare commercial per commercial di cosa si tratta. Io direi di ascoltare subito il primo estratto. Immaginatevi di essere nel 1987, ma quello che state per sentire era il futuro così come veniva immaginato da Apple. You have three messages. Your graduate research team in Guatemala, just checking in. Robert Jordan, a second semester junior, requesting a second extension on his term paper. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest. Right. Let me see the lecture notes from last semester. No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet. Journal articles only? Fine. Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon and its effects on rainfall in the sub-Sahara. It also covers drought's effect on food production in Africa and increasing imports of food. Contact Jill. Allora, noi abbiamo questo professore, sappiamo che è un professore, non sta parlando con un segretario in carne e ossa, sta parlando con il suo computer, con qualcosa che assomiglia pericolosamente a un iPad, a un tablet dei giorni nostri. Ma appunto, questa sorta di spot, anche se è un video piuttosto lungo, risale al 1987. Cosa succedeva, Giulia? È una cosa abbastanza incredibile, lo potremmo chiamare un concept computer, perché appunto, vi immaginate nel 1987, tanti di voi forse non se lo ricordano neanche, ma persino il mouse era una cosa abbastanza un lusso, i monitor a colori erano abbastanza un lusso. E qui invece appunto qualche genio della Apple, Steve Jobs o chi per lui, perché poi proprio in quegli anni lui era stato allontanato per certe sue intemperanze, si era immaginato che in futuro ci sarebbe stato un computer che addirittura parlava in un modo abbastanza intelligente, anche se molto metodico, con noi. E guarda caso cosa poi diceva, ecco, al professore. Ecco, quindi per esempio gli diceva "You have three messages", quindi una specie di posta elettronica letta ad alta voce, e gli ricordava che c'erano i suoi studenti a questo research team in Guatemala just checking in, cioè che dava notizie di sé, perché il check-in noi siamo abituati a pensarlo come quello che facciamo all'aeroporto, però to check in vuol dire semplicemente dare notizia di sé, quindi appunto tu sei lontano e dai un segnale e quindi avverti quello che stai facendo. Ormai adesso lo facciamo anche noi appassionati di Foursquare, andiamo in un posto e facciamo check-in, esatto. Segnaliamo che siamo lì. E poi però non parlava solo di lavoro, gli teneva anche gli appuntamenti privati. Sì, tant'è che il secondo poi gli dice c'è questo tuo studente a second semester junior, questo è molto interessante perché nel college ma anche alla scuola, al liceo, che sono 4 anni in America, si viene divisi in 4 anni. Se quando entri sei un freshman, cioè un uomo fresco, poi sei un sophomore, poi sei un junior al terzo anno e sei un senior al quarto anno. Quindi questo ragazzo è del second semester junior, quindi è nel secondo semestre del terzo anno, e gli sta chiedendo una second extension. L'extension non è quella dei capelli, anche quella, ma gli sta chiedendo di spostare in avanti la data per consegnare il term paper, cioè quella paper che non è carta in questo caso, ma è un lavoro, quindi una specie di piccolo studio, di piccola tesina, potremmo dire, alla fine del term, cioè alla fine del semestre. E poi però cosa succede? Che chiede a questo computer avveniristico di fargli delle ricerche, è già internet. Sì, quindi lui gli dice hai una lecture at 4:15, lecture non è lettura ma lezione, quindi hai una lezione da tenere, e lui dice oddio, prima fammi vedere le lecture notes, cioè i miei appunti dell'ultimo semestre, e poi si rende conto che non vanno più bene, e quindi gli dice al computer I need you to review more recent literature, cioè ho bisogno che tu, quindi sapete questa costruzione, no? Noi diciamo ho bisogno che, mentre in inglese dice ho bisogno tu che, quindi I need you to, I need you, you computer, you iPad, you concept computer, to search for me, per fare questa ricerca per me. E non solo, perché quando poi gli ha trovato un articolo fatto da una collega, gli dice contact Jill, contattamela. È quello di cui ho bisogno, è questo paper, questo article journal, cioè pubblicato su una rivista, e mi piace, mi interessa, contattala, così magari le chiedo se non altro magari il permesso di usare questo suo article. Avviciniamoci al futuro, facciamo un salto di 10 anni, siamo nel 1997. Here's to the crazy ones, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, while some may see them as the crazy ones. We see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Il nostro Roberto in regia ha sentito 2 note, anche solo della musica, del commercial, e se l'è ricordato subito, all'istante, molto, molto famoso. Sì, è la famosa campagna, quella del ritorno di Steve Jobs alla Apple, alla sua creatura, era la campagna che si intitolava Think Different. E qui noi forse non ce ne accorgiamo, però già fin dal nome era un po' eretica, perché letteralmente bisogna dire Think Differently. Think è un verbo, quindi bisogna usare un avverbio, pensa diversamente. Invece Think Different è pensa diverso, che è molto più efficace, però è leggermente sgrammaticato. E quindi c'è questa, tanto qui sentiamo la voce di Steve Jobs, poi nello spot veramente andato in onda, lui ha assoldato poi un attore super professionista che è Richard Dreyfuss, ma all'inizio, insomma forse un po' in un delirio di onnipotenza tipico di Steve Jobs, lasciatemelo un po' dire, voleva appunto leggerla lui. E comincia con Here's to the crazy ones, che potremmo tradurre con ode ai folli, ode ai pazzi. Perché tutto questo è il germe della creatività. Esatto, perché qui vedete che qui poi invece lo usa correttamente, perché dice the ones who see things differently, quindi to see, verbo, avverbio, differently, quindi coloro che vedono le cose diversamente. They're not fond of rules, to be fond of something. Fond non vuol dire fondo naturalmente, ma amare qualcuno, quindi non amano le regole. Poi li puoi citare, cosa un altro verbo che si usa spesso in rete, e puoi essere d'accordo con loro o non essere d'accordo con loro, ma una cosa fondamentale è che alcuni li vedono come i pazzi, ma noi della Apple ci vediamo il genio. Ci vediamo il genio. Some may see them as the crazy ones. Qualcuno forse li vede come quelli pazzi, appunto, ma we see genius. E poi questa idea, questa visione positiva della follia, ricordate, no? Stay foolish, che non è proprio crazy, ma ci si avvicina. People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Si è talmente, a volte sembra una follia pensare di cambiare le cose. Noi in Italia forse in questo momento siamo proprio affetti dall'ansia, dall'angoscia di non riuscire a cambiare niente. Ecco, se fossimo un po' più folli, penseremmo di poter cambiare le cose e forse we would be the ones who do, e forse ci riusciremo. Abbiamo ancora pochissimi minuti, ma ci ascoltiamo qualche secondo da un'altra campagna, e anche qui ci sarà chi la riconosce al volo. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. What are you reading? Just the Wall Street Journal. It's nothing. Oh, no. A PC? You know what? Oh, it's a review of you. Don't read it. Oh, it's from Walt Mossberg, one of the most respected technology experts on the planet. Apparently you're the finest desktop PC on the market at any price. Very nice. It's just one man's opinion. I actually got a great review this morning, too. Oh, and they said I was awesome. Good for you. And so we're the same. Yeah, what was that in? The awesome computer review weekly. Non so come dire, Beatles o Rolling Stones, Coppi o Bartali, le grandi rivalità del Novecento e che ci siamo portati anche ai giorni nostri, Apple, Mac. Cioè OPC. OPC, e questi veramente andateveli a vedere su YouTube, ce ne sono decine e decine. Il Mac è un ragazzo, non uno bellissimo, non uno fighissimo, uno normale. Il PC sembra che abbia la stessa idea, ma è come un giovane vecchio, e si prendono molto in giro, ma senza cattiveria, senza acidità, è il bello di questi spot. E qui per esempio il motivo del contendere era una Wall Street Journal Review, cioè il Wall Street Journal aveva lodato il Mac, e Mac aveva quasi paura di fargliela vedere a PC per paura un po' di deprimerlo. Una review, una recensione possiamo dire. Dice, ah beh sì, è di questo signore, one of the most respected technology expert on the planet, cioè uno dei più grandi esperti, più rispettati di tutto il pianeta, e beh dice che you are the finest desktop PC on the market, cioè il Mac è il più fantastico PC, nel senso di personal computer, sul mercato at any price. Naturalmente PC è un po' depresso, allora Mac cerca di consolarlo, ma no, non ti preoccupare, it's just one man's opinion, è solo l'opinione di una persona. E poi anche lui aveva avuto una great review this morning, una bellissima recensione questa mattina. And I said it was awesome. Diceva che io sono favoloso, fantastico, straordinario. So we are the same, siamo la stessa cosa. Poi veniva fuori che insomma quella del PC con un po' di ironia non era proprio quella del Wall Street Journal. Sì, e tra l'altro Mac cerca di dargli un po' di sicurezza, dice good for you, ma bene, che buona cosa. E quindi dov'era? E l'altro naturalmente, questo giovane vecchio che sa benissimo che la review che lo riguarda è su un giornale insomma di decima categoria, si chiama The Awesome Computer Review, it's a weekly, it's a journal, insomma è una pubblicazione praticamente sconosciuta, però insomma una piccola review l'ha avuta anche lui. Ma davvero ce ne sono di fantastici, perché poi si prendono in giro su tutto, sull'arrivo di vista, su tutto. Guarda, andate a vederli su YouTube. Li recupereremo. E con questa puntata di English 24 abbiamo concluso. Io ringrazio Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.